Sotto questo cielo nero non mi passa, sono sincero. Vorrei stare fermo, il vento soffia e mi fa andare via. Ma questa strada è troppo lunga, sembra non finire mai nell'aria fresca del mattino. E questa qua è troppo fredda, io la posso attraversare solo avendoti vicino. E se poi mi dicono che sono lontano da casa mia, tu non sei qui a salvarmi il cuore. Posso solo aggrapparmi al tuo ricordo e a quella voce che mi fa ancora sognare. Guarda, il cielo è blu, senza una nuvola, senza la nebbia, solo aria pura. Ma mi manchi tu, sono senza parole. Sola stella che io cerco ancora. Questa volta non ho voglia di sentire un'altra storia nella fretta del mattino. E rimango indifferente, io mi posso sopportare solo avendoti vicino. E se poi mi dicono che sono lontano dall'anima mia, tu non sei qui a salvarmi il cuore. Io posso solo aggrapparmi al tuo ricordo e a quella voce che mi fa ancora sognare. Guarda, il cielo è blu, senza una nuvola, senza la nebbia, solo aria pura. Ma mi manchi tu, sono senza parole per dirti quanto io ti voglio avere ancora. E in questo blu tu sei il mio sole, tu sei la sola stella che io cerco.